E allora sì, torniamo in diretta con l'agenda qui da Radio Onda Rossa, il martedì autogestito. Siamo al telefono con una compagna dell'MFPR di Palermo. Ciao, ci senti? Ciao, ciao. Ben trovata. Senti, allora voi siete in presidio già ancora in questo momento? Sì, stiamo quasi per terminare, però siamo ancora qui. Bene, un presidio che è iniziato alle 16:30, siete sotto il tribunale, vogliamo diciamo ricordare, è un processo che voi state seguendo da tempo ovviamente questo, ma forse diciamo due parole su questo processo in generale, poi non so se avete informazioni più precise sull'udienza di oggi. Sì. Allora, niente, noi in realtà adesso in questo momento non siamo davanti al tribunale perché abbiamo deciso di farlo in una zona un pochino più vissuta da parte dei cittadini, da parte delle donne, e quindi siamo al centro, però comunque ieri sera abbiamo messo uno striscione davanti al tribunale e comunque ancora oggi c'è, siamo contente perché insomma è ben visibile. Comunque niente, noi siamo qui adesso per questa evenienza, perché oggi c'è il processo contro l'uccisore di Carmela. Noi abbiamo deciso di fare questa manifestazione oggi perché era giusto diciamo ricordare Carmela, infatti abbiamo dedicato questa giornata con il titolo con Carmela nel cuore, però ovviamente di conseguenza generalizziamo a tutte le donne che sono ogni giorno stuprate, uccise, offese in tutti i modi contro questi uomini che odiano le donne. E quindi siamo qui, abbiamo fatto megafonaggio, abbiamo dato tanti volantini, la gente è molto solidale perché comunque è qualcosa di sentito da parte delle donne, perché ovviamente è qualcosa che tocca tutte le donne, dalle studentesse alle donne un po' più grandi. Io sono una studentessa, quindi diciamo porto la voce delle studentesse, delle giovani. E niente, quindi diciamo che abbiamo generalizzato questa giornata un po' anche per parlare di quello che è l'appello al quale abbiamo aderito di Concetta e di Luigia, due compagne, una di Taranto e l'altra dell'Aquila, che hanno fatto un appello contro diciamo la violenza sulle donne, e per cercare di avvicinare le donne a una lotta, per creare un'organizzata lotta e per arrivare a un giorno che sia dedicato a uno sciopero delle donne. E siccome diciamo questo appello lo sentiamo anche noi e c'è molto vicino, abbiamo deciso di partecipare e abbiamo insomma dedicato anche questa giornata a questa evenienza che sarà a luglio, lo sciopero delle donne. Noi quando parliamo di sciopero delle donne, quando parliamo diciamo della violenza sulle donne, diciamo che noi la violenza sulle donne non è qualcosa di sporadico da parte di un mostro, da parte di una persona malata, ma è qualcosa di molto più diciamo più importante da analizzare, perché è quella violenza che si crea per colpa di una ideologia da parte dei uomini tutti, ma è dovuto anche alle istituzioni, è dovuto al governo, è dovuto a questa società capitalista che vede il ruolo della donna come una donna subalterna all'uomo, come una donna che deve vivere come angelo del focolare, deve vivere la sua vita in base diciamo a questo genere di ruolo. E per noi quindi è importante che le donne possano realizzare la loro emancipazione, che possano vivere in maniera diciamo giusta, come è giusto che sia, e quindi la nostra parola d'ordine è quella di scendere in piazza, di trasformare la nostra ribellione. E quindi diciamo siamo qui anche per questo, per parlare dello sciopero delle donne appunto in vista di questa grande giornata. Senti, dicevi quindi siete un gruppo di studentesse, poi però ci sono anche lavoratrici, altre donne che hanno aderito. Allora, hanno partecipato diverse realtà, per esempio noi come studentesse, poi ci sono anche lavoratrici del sindacato, dello Slay Cobas per il sindacato di classe, alcune disoccupate, e poi diverse donne, anche il comitato 21 luglio, che è un comitato, un coordinamento che è qui di Palermo, che comunque hanno voluto partecipare a questa manifestazione perché era giusto partecipare nei confronti di Carmela, che è rimasta uccisa, che ha subito questa violenza e questa efferatezza. E poi diverse donne hanno, diciamo, hanno voluto volantini, hanno voluto parlare al megafono, quindi c'è stata una grande risposta da parte delle donne qui. Quindi diciamo che è stata veramente bella come giornata. Adesso stiamo quasi per finire, ci sono gli ultimi megafonati, gli ultimi slogan e poi insomma vedremo. Noi non sappiamo in realtà, non abbiamo notizie sul processo, però comunque la cosa diciamo da sottolineare è che oggi la notizia eclatante è che Samuele, il ragazzo che è sotto processo, potrebbe anche ricevere l'infermità mentale, quindi fondamentalmente uscire pulito da questa situazione senza pagare neanche un giorno di carcere. Noi ovviamente vogliamo delle pene più pesanti, vogliamo che Samuele paghi come paghino tutti quei uomini che uccidono e stuprano e fanno violenza, però comunque ci rendiamo conto che al di là della richiesta di una giustizia più forte, è anche importante che le donne scendano in piazza, che ci rendiamo conto che l'unico modo, l'unica soluzione per l'emancipazione della donna è la lotta in piazza delle donne, la lotta di ogni giorno da parte di tutte le donne proletarie che subiscono questa violenza giornalmente. Sì, diciamo soprattutto quest'ultima parte ci trova molto d'accordo. Tra l'altro ricordiamo che Carmela è stata uccisa perché ha reagito, insomma, e quindi oltretutto non è ovviamente ai noi l'unica che purtroppo viene uccisa per questo. Molte comunque reagiscono, invece sopravvivono. È molto importante, insomma, ecco, rispondere a questo con la solidarietà tra donne. Non abbiamo altre armi. Poi sulla questione, diciamo, delle pene si può aprire un capitolo di discussione, ma insomma senz'altro appunto l'idea di fare un presidio, di unirci, riconoscerci a vicenda, imparare anche a conoscerci e relazionarci è molto importante, perché poi insomma la violenza è molto diffusa ovunque. Certo, dai luoghi. Però diciamo che è il fatto di non dare neanche un minimo di punizione, questo è simbolo, è lo specchio di quello che è poi la società, la giustizia, che non dà mai ragione alle donne, che alla fine subiscono sempre come tante altre ragazze, che poi tante altre donne, che poi a poco si stufano anche di aspettare la giustizia, cadono anche in depressione, cadono diciamo in quel vortice in cui preferiscono lasciar perdere la lotta. Noi cerchiamo, diciamo, anche con il collettivo, l'MSPR, abbiamo accompagnato anche a Taranto, cerchiamo di essere sempre presenti in queste occasioni per dare forza a queste donne che comunque hanno bisogno del nostro appoggio, perché è giusto, insomma. Certo, poi sappiamo che insomma i tribunali, appunto come dici tu, essendo espressione di questa cultura, non è che possono, diciamo, esprimere altro, quindi ecco, sappiamo che tutti i processi sono difficilissimi per le donne e che è una, diciamo, forma di solidarietà importante essere lì quando è richiesto o quando comunque appunto è il caso di farlo. E va bene, allora noi ti ringraziamo moltissimo e ti lasciamo al tuo presidio e io in chiusura... Noi ringraziamo voi. Bene, io in chiusura adesso ricorderò nuovamente che sta girando appunto questo appello per una mobilitazione nazionale, diciamo anche le date, e però insomma ti lasciamo libera di proseguire il volantinaggio e ci aggiorniamo. Grazie, io vorrei fare sentire le compagne che questo momento stanno facendo slogan. Adesso mi avvicino, magari vi faccio sentire le voci delle compagne. Sì. Un attimo. Grazie. Doni, dai, facciamo. dai, veloce. Bene, grazie. Grazie a voi. Grazie, un abbraccio a tutte quante. Grazie mille, grazie per averci dato la possibilità di esprimerci. Ma quando volete, insomma, sapete, qua i microfoni sono aperti. Va bene, un abbraccio, buon proseguimento di presidio. Anche a voi. Ciao.